good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera e ben sintonizzate. Siamo di nuovo qui a farci reciproca compagnia e quella che ascolterete tra poco è la nostra 157esima trasmissione. Oggi qui in studio siamo Lucilla e Monica e io che faccio soltanto delle piccole entry e darò una mano a queste due sgarzule con il mixer. Dunque, l'argomento di questa trasmissione è violenza domestica o guerra domestica e per realizzarla abbiamo raccolto molti dati. Cioè, sento nei rumori, ok, fermi con i microfoni. Dunque, abbiamo raccolto molti dati, in parte provenienti da Differenza Donna, che ricordiamo e ringraziamo in maniera particolare, e soprattutto dall'articolo della Merandri apparso su Liberazione del 3 gennaio 2005, che ci ha dato ulteriori spunti di riflessione. Riflessione che vogliamo comunicarvi e ci aspettiamo le vostre considerazioni. Vi ricordiamo che avete la possibilità di intervenire a questa trasmissione attraverso l'invio di SMS al nostro numero di cellulare che è 338-4146-682. Vista l'entità dell'argomento, ci rendiamo conto che forse un messaggio potrebbe essere troppo sintetico e allora vi ricordiamo che potete scriverci indirizzando la vostra mail a contatti@clrbp.it. Oppure ci potete scrivere a CLR presso Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Adesso però ascoltiamoci insieme il brano di Yoshi Curiel, che è la nostra compagna della Repubblica Dominicana e che riascolteremo anche più avanti. Allora, il brano si intitola Illusiones. Voy oliendo a futuro, todo el mundo inseguro, ya nadie sueña más. Pensamos que somos seres de rebeldía, que estamos ausentes de esas grandes mentiras, que ellas mejoran porque van a la guerra. Y hacemos poder aceptando las reglas. Ilusiones, esa es la realidad. Vendemos el alma todo por concertar. Ilusiones, que se quiere engañar. Thank you. cuaderno repatriando braseros. Les encanta hablar de paz. Nos pasamos el tiempo releyendo los vientos. Nada logra cambiar. Mujeres violadas no es noticia del día. Ni el árbol que corta mientras muere la vida. Opciones sexuales suenan como castigo. Y el viejo tirano ya no es enemigo. Ilusiones, esa es la realidad. Piensa en nosotras cuando cuotas nos dan. Ilusiones, quien se quiere engañar. E allora ci siamo, quindi ringraziamo Caterina per la sua entrée, che è stata come al solito splendida, e parliamo dell'argomento di questa sera, che ha il titolo Violenza domestica o guerra domestica. In un articolo di Lea Melandri, pubblicato su Liberazione domenica 3 gennaio 2005, l'autrice analizza un fenomeno curioso, ma poi neanche tanto, circa l'indifferenza con cui vengono accolti i dati relativi alla violenza sulle donne. Il titolo del pezzo è significativo. Chiedetevi cos'è la maschilità? E a partire dai dati statistici riguardanti la violenza su donne e bambini forniti da Eurispes, Amnesty International e Istat 2000, c'è da chiedersi insieme a Melandri perché questa guerra quotidiana interna alle nostre case, perpetrata da sempre da parte degli uomini sulle donne, venga accolta con tanta freddezza e noncuranza dalla cosiddetta società civile. La violenza sulle donne, fisica, sessuale, psicologica, economica, accomuna tutte le nazioni del mondo, dal primo al terzo, a prescindere dal contesto sociale, culturale, politico e religioso del paese o del singolo maltrattatore. E vediamolo allora qualche dato. La violenza domestica rappresenta il 90% della violenza alle donne. Negli Stati Uniti 1.500 donne ogni anno vengono uccise dai loro partner, mariti o conviventi. Secondo una inchiesta condotta da una rivista giuridica della Facoltà di Giurisprudenza di Harvard, ogni 15 secondi una donna viene aggredita dal proprio coniuge. In India una donna su quattro viene bruciata dal marito, così lui si assicura un'altra dote. In Gran Bretagna, una donna su 10 viene percossa a sangue dal partner. In Canada, è più probabile che una donna venga uccisa dal proprio compagno che da un estraneo. E in Italia? In Italia, nell'anno 2003, sono state uccise 96 donne dai loro partner o ex partner. Possiamo notare con estrema facilità che i cosiddetti paesi sovrasviluppati sono ben più presenti di quelli sottosviluppati. Questo significa che le donne, ovunque esse vivano, sono in una posizione di vulnerabilità anche nei paesi occidentali con leggi di tutela, proprio per quella diffusa e comune convinzione che la violenza, come ad esempio lo stupro, sia fatta ad opera di sconosciuti, magari drogati, alcolizzati, diseredati, e che le donne siano più protette a casa. Se si sanno comportare, vestire adeguatamente, non possono essere bersaglio di quel tipo di violenza. E allora, che cosa ne facciamo di quei dati sulla violenza domestica? Comunemente viene considerato un problema di coppia del tutto normale nel contesto familiare. Ascoltiamo qualche storia. Belgio, Juliette. Avevo paura di essere ripudiata e provavo vergogna. Juliette, nome di fantasia, non osava raccontare ai suoi amici e alla famiglia che il suo compagno la picchiava. Nonostante la gravità delle denunce, Juliette non è ancora venuta a conoscenza dell'apertura di alcun procedimento penale da parte dell'autorità. In Belgio, la maggior parte delle denunce formali presentate dalle donne sulla violenza domestica non risulta seguita da alcun procedimento giudiziario. Swaziland, Sudafrica. La violenza alimenta la diffusione dell'HIV-AIDS. Simbogile, anch'esso un nome di fantasia, aveva 7 anni quando suo zio abusò sessualmente di lei per la prima volta. Simbogile tentò di sfuggire, rifugiandosi presso un vicino. Questi, invece di proteggerla, la violentò e la minacciò per farla smettere di urlare. Nel luglio del 2003, 2 uomini sono stati portati in giudizio con l'accusa di stupro. Simbogile ha testimoniato in una stanza chiusa in presenza di coloro che l'avevano violentata. Il processo è terminato con il rilascio degli imputati. Non è un crimine costringere la propria compagna, moglie, ex convivente ad un rapporto sessuale obbligato con la forza fino all'omicidio. Infatti, solo un numero esiguo di donne denuncia le aggressioni per timore di ritorsioni o per la vergogna o per quel comune senso di normalità circa la violenza nel rapporto con l'uomo. Melandri si chiede come mai dati così allarmanti non occupino spazi adeguati a livello dei media, mentre fatti di cronaca di contenuto analogo, come ad esempio l'omicidio di una giovane donna con sospetto di stupro, vengano raccontati con enfasi e dovizia di particolari. Nel primo caso, dice Melandri, l'elemento che balza per primo agli occhi è l'appartenenza del sesso della vittima e dell'aggressore. Il fatto cioè che a uccidere, violentare e sfruttare le donne sono quasi esclusivamente gli uomini, mentre nel racconto di cronaca il sesso dei protagonisti resta in sottofondo. La dimensione generale del problema lascia cioè il posto ad una casistica di ordinaria delinquenza o di ordinaria patologia. Ancora una volta, confronta l'articolo su Liberazione della Melandri, molto interessante. Viene da dire invece che ci sia una costruzione scientifica precisa, quella che Adrienne Rich molto acutamente nominava come gli avvertimenti del patriarcato alle donne. Stupro, violenza, lenocinio, pornografia, prostituzione, tratta delle bianche, eccetera. Da Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, su DVF Nero, pubblicato nel 1985, ancora di grandissima attualità. Broto e con precisão pra lá di matematica. Saia às 3 e arroche a prima moto pra Bangu e a segurança máxima. E allora elenchiamo qualche cifra da violenza sessuale. Dati impressionanti di Carla Amato del 18 dicembre 2004 che, se volete, potete consultare sul sito www.osservatoriosullalegalità.org. Dice: circa 500.000 di donne dai 14 ai 59 anni nel corso della loro vita hanno subito almeno una violenza, tentata o consumata, secondo l'Istat. Si tratta del 2,9% del totale delle donne di 14-59 anni. Più della metà, 9.860.000, delle donne in età 14-59 anni ha invece subito nell'arco della vita almeno una molestia a sfondo sessuale, mentre il 3,1% delle donne fra i 15 e i 59 anni nel corso della vita lavorativa ha subito ricatti sessuali sul posto di lavoro per essere assunta, mantenere il posto o ottenere un avanzamento di carriera. L'indagine fa parte della ricerca Istat sulla sicurezza dei cittadini, che raccoglie dati sul fenomeno della criminalità ed in questo particolare caso sulle violenze e le molestie sessuali subite dalle donne. Il campione è stato ottenuto intervistando telefonicamente nel 2002 60.000 famiglie per un totale di 22.759 donne. Certo, in questo tipo di indagini l'impostazione delle domande o la presenza di altri familiari durante l'intervista incide in modo significativo sui risultati. Quasi certamente quindi il fenomeno è sottostimato, dato il timore della donna di rivelare fatti e dettagli umilianti, la paura di ritorsione da parte dei propri aguzzini e per altri motivi di ordine psicologico e sociale. In media, a livello mondiale, solo un quarto dei tentativi di stupro ed un terzo degli stupri viene denunciato alla polizia. La violenza sessuale sulle donne non è infatti un fenomeno che riguarda solo l'Italia, ma molti paesi in via di sviluppo o anche avanzati. Ed infatti leggiamo dalla presentazione che ha fatto Dacia Maraini per il volume di Amnesty International sulla violenza sulle donne, una piccola parte che riguarda la Russia. Ma la cosa che sorprende è che anche nei paesi dove le leggi sono favorevoli alle donne si registra un aumento delle violenze. Prendiamo il caso della Russia, il cui diritto al voto per le donne risale al 1918, in cui la forza lavoro femminile è pari al 45% del totale, in cui il 93% delle ragazze sono iscritte alle scuole secondarie, in cui le analfabete sono solo l'1% e percepiscono il 100% del salario durante il congedo di maternità. Ebbene, in questa Russia emancipata, in cui le donne appaiono libere e indipendenti, ogni anno ne muoiono per mano dei loro mariti e parenti ben 14.000, un numero pari a quello di tutti i soldati morti nei 10 anni di guerra dell'Unione Sovietica in Afghanistan. Domande sulle aggressioni sessuali sono state poste anche in occasione della terza ricerca internazionale sulle vittime della criminalità, intrapresa nel 1996-97 nelle aree urbane di 11 paesi sviluppati, in 14 in via di sviluppo e in 20 paesi in transizione. I risultati, a giudizio dell'Istituto di Ricerca Interregionale sul Crimine e la Giustizia delle Nazioni Unite, svelavano la portata ampia del fenomeno. La quinta ricerca dell'ONU sulle tendenze in materia di criminalità, sull'operazione dei sistemi di giustizia penale condotta nel 1993, ha permesso di notare che la percentuale di paesi che fornivano statistiche sulle condanne per stupro era più alta rispetto ad altri crimini. Il 60% dei paesi interrogati disponeva di statistiche relative alle condanne per stupro. Inoltre, una ricerca dell'Università di Harvard di qualche anno fa rivelava che per le donne fra i 14 e i 44 anni la violenza è la prima causa di morte e di invalidità, per cui si muore più di stupri e percosse che di cancro o di guerra. Ma se alcune forme di violenza sessuali, stupri e molestie sono riconosciute come un crimine dalla maggior parte dei sistemi legali, in molti paesi lo stupro in famiglia non è reato e solo 44 nazioni hanno una legislazione contro la violenza domestica. E allora andiamo a vedere un po' in materia di aiuto alle vittime i paesi nordici che sono all'avanguardia, che cosa dicono. Finlandia. La legge sui divieti di visita è entrata in vigore nel 1999. Grazie a questa legge può essere vietata ad una persona, per esempio l'ex congiunto, il marito, eccetera, eccetera, di entrare in contatto al fine di proteggere la stessa, la donna quindi, e la sua tranquillità. Svezia. Un nuovo reato chiamato violazione grave dell'integrità di una donna è stato introdotto nel codice penale. La sanzione prevista è l'arresto con pena che può andare da 6 mesi a 6 anni. Norvegia. Dei sistemi di allarme sono forniti alle donne minacciate che danno un accesso alla polizia in caso di urgenza. E infine Belgio. Ha considerato nel 2001 una priorità la lotta contro la violenza domestica. Ha elaborato un piano d'azione includendo diverse misure in materia di prevenzione con sanzioni e assistenza per le vittime. Molte di queste violenze e molestie si svolgono appunto in famiglia, ad opera di persone di cui la donna si fida. In particolare, dalle ricerche internazionali è emerso che anche nelle violenze sessuali su bambini che spesso si consumano in casa o nel parentado, le femminucce sono colpite in misura almeno tripla dei maschietti. Alcuni paesi europei, come la Spagna, hanno un'altissima incidenza di violenze mortali o gravi sulle donne, che vengono violentate, strangolate, bruciate e gettate dalle finestre spesso dai propri stessi compagni. La legge contro la violenza sulle donne, promossa dal governo Zapatero, ha visto l'adesione di circa 100 intellettuali uomini che hanno voluto divulgare un manifesto con le ragioni del loro forte sostegno all'iniziativa. Nella mite Svezia, un giornale, ha deciso di mobilitarsi contro la violenza consumata fra le mura domestiche, pubblicando nomi e foto di quanti vengono condannati per violenze contro le mogli, al fine di mettere in guardia le altre donne dal frequentarli. In Italia, la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che anche costringere con la violenza la propria moglie ad un rapporto sessuale costituisce illecito. Beh, io direi di fare un piccolo stacco musicale, una canzone in tema di Mia Martini e il titolo è Donna. Yeah. allora noi tocca a me. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21, mentre il martedì femminista e lesbico autogestito inizia alle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo chi ci ascolta quindi via internet, ci sono già arrivati alcuni messaggi di cui poi vi parleremo più avanti. Ci farebbe molto piacere sapere da quale città ci state ascoltando e se invece state a Roma o dintorni gradiremmo sapere da che zona e com'è la qualità del segnale che ricevete. Per fare tutto questo potete utilizzare il numero del nostro cellulare per gli SMS, che è 338-4146-682. Facciamo un brevissimo stacchetto musicale e poi riprendiamo con la trasmissione. Dunque, torniamo allora all'Italia. È del maggio del 2001 l'entrata in vigore della legge 154, che ha introdotto finalmente nel nostro ordinamento l'ordine di allontanamento del maltrattatore dalla famiglia. Con tale normativa la donna in difficoltà, per avere subito violenza da parte del coniuge, ma anche del convivente o da altro componente della famiglia, ha la possibilità di ottenere un provvedimento del giudice che allontana immediatamente il maltrattatore, senza dover presentare per forza denuncia penale. E se volete avere più notizie su questa legge, potete consultare il sito cadom-monza-tinit. Questa legge però non ha creato nuove fattispecie penali specifiche. È un dato di fatto che nell'intero sistema giuridico italiano il concetto di violenza domestica o familiare non compare. Nessuna norma si riferisce espressamente ad essa e tantomeno la definisce. Quanto al concetto di violenza, nell'etimo della radice latina vis violentia indica forza in potenza che diventa violenza in atto e che può essere definita solo da chi la patisce o la percepisce come tale. Per questa evidenzia indubbia difficoltà la sua traduzione nel linguaggio giuridico della repressione penale, e per questo potete consultare i Rosoni, Violenza in generale, Diritto intermedio, Enciclopedia del diritto, volume 24, Milano, Giuffre, 1993, paragrafo 881. Ho sbagliato volume, Monica? Signor sì, è 46. E il numero, va bene, tombola 46. Allora, e se a patirla e a dover dimostrare di patirla sono le donne, la battaglia è persa in partenza. Purtroppo è molto alta la tolleranza sociale e culturale nei confronti di questo reato, anche da parte delle donne. Il dominio violento delle donne è il vero problema di tutte le società. La violenza domestica è una violenza inattesa, ha delle conseguenze molto gravi sulle vittime, proprio in virtù del fatto che proviene da persone di cui si fidano. Più gli autori della violenza sono vicini alla vittima, più diventa difficile rilevarla. Potremmo riassumere schematicamente la violenza domestica in alcuni punti. 1. È agita all'interno di un rapporto di coppia. Ha come caratteristica prevalente la violenza verbale e psicologica, denigrazione e svalorizzazione. Ma non solo. Frequenti sono le botte, le minacce e l'imposizione del rapporto sessuale. 2. Studi condotti in tutto il mondo indicano che le donne sono più a rischio di violenza nelle loro case. 3. Rispetto alla violenza sessuale occasionale, la violenza domestica è ripetuta e tende alla cronicità. 4. Questa è la violenza meno riconosciuta dalle donne e dalla società. 5. Essa crea gravi problemi di salute a medio e a lungo termine. 6. I coniugi maltrattanti non hanno particolari caratteristiche psicosociali che li distinguono da altri uomini. Non sono né etilisti, né tossicodipendenti, né malati di mente. Se a caso você perguntar por você, não há o que eu não faça. Come identificare allora gli aggressori? Impossibile. Il fenomeno è trasversale e bypassa classi sociali, reddito, livello culturale. Né si può credere ad una conseguenza di un disturbo psicologico o all'uso di sostanze stupefacenti. La vastità di tale realtà è troppo ampia per essere giustificata in questi termini. Ciò significa, e questo è l'aspetto più inquietante della violenza contro le donne, che essa non presenta dei chiari confini, che hanno altri tipi di violenza. Non è circoscrivibile in precisi luoghi o contesti sociali o addebitabile a processi socio-economici. E per questo leggiamo sempre, pubblicato da Amnesty International, alcune storie. Due le avete sentite prima, le ha lette Monica. USA, Maria Teresa Macias. Se io muoio, voglio dirvi tutto ciò che mi è accaduto. Maria Teresa Macias, Teresa, aveva molte buone ragioni per temere che suo marito l'avrebbe uccisa. Nei 18 mesi prima della sua morte, Teresa si è rivolta alla polizia più di 20 volte. Suo marito la picchiava e abusava sessualmente di lei e dei suoi figli. Dopo che Teresa abbandonò la casa, suo marito iniziò a pedinarla, terrorizzandola di morte ripetutamente. Il 15 aprile del 1996 le sparò e la uccise. Poi sparò due volte alla madre di lei, prima di rivolgere la pistola contro se stesso. Spagna. Alicia Aristregui. Donne uccise dopo i loro appelli di protezione sono caduti nel vuoto. Allora, Alicia Aristregui è stata picchiata dal marito per tutti i 14 anni del loro matrimonio. Dopo essere stato lasciato, il marito ha continuato a minacciarla e ha più volte sfidato un ordine giudiziario che gli proibiva di avvicinarsi a lei. 4 mesi dopo la separazione, suo marito le si è avvicinato e l'ha accoltellata mortalmente. Nel corso delle procedure per la richiesta di un ordine giudiziario che obbligasse suo marito a non contattarla, Alicia disse di essere fermamente convinta che egli avrebbe dato seguito alle minacce. L'OMS, dal 95-96, ha lanciato il primo allarme sulla violenza come fattore eziologico e di rischio di una serie di patologie di rilevanza per la popolazione femminile. Patologie mentali e depressioni, di cui le donne soffrono da 2 a 3 volte di più degli uomini. Si stima che il 10% delle vittime di violenza domestica tenti il suicidio e che siano 5 volte più frequenti rispetto a donne non maltrattate. Patologie ginecologiche, gastroenterologiche, disturbi alimentari come anoressia e bulimia, ipertensione, asma, dipendenza, abusi di alcol e droghe. Tutti i dati che potete trovare in WHO Consultation Women's Health Development 1996. La Banca Mondiale, nel rapporto sullo sviluppo mondiale, stima che stupri e violenze domestiche riducano gli anni di vita sana fra le donne di età compresa fra i 15 e i 44 anni, più che cancro al seno e alla cervice dell'utero. Incidenti sul lavoro, guerre o incidenti automobilistici. Ma nonostante questi rapporti, i cui risultati allarmanti dovrebbero portare la cosiddetta comunità internazionale ad affrontare con i mezzi dovuti una tale catastrofe umanitaria, i buoni propositi degli organismi preposti si infrangono non semplicemente contro scogli socioculturali, ma contro quelli ben più redditizi di origine economica. Non è un caso che non esistano ricerche serie su quanto producano le donne in termini di lavoro di cura. Mentre l'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, a proposito del traffico di donne e bambini, stima un fatturato annuale di circa 8 milioni di dollari relativo al loro sfruttamento sessuale. E la domanda adesso non è certo chi si sottopone più o meno volontariamente alla prostituzione o quale organizzazione criminale stia dietro a questo traffico, ma perché rispetto a questa realtà gli stati, i governi, gli organismi più disparati accettino che una guerra di proporzioni mondiali, non dichiarata ufficialmente, continui ad esistere e a mietere vittime. È il sessismo, termine irrintracciabile nei comuni vocabolari, ma il cui significato è che esiste l'oppressione di un sesso sull'altro, utile all'economia mondiale. Da qui il resto. Connivenze dei governi e delle istituzioni, omertoso silenzio della società civile. Io direi di fare un altro piccolo stacco musicale. Volevo far ascoltare Dark Street delle Kick La Luna. ed è una canzone che parla anche questa di violenza che generalmente viene fatta sulle donne, per esempio mentre camminano la sera per strada, e in questa canzone si rivendica il diritto di circolare, di potersi, per potersi riappropriare della propria libertà anche di girare la sera. E allora a questo punto leggiamo qualcosa di più ufficiale, molto più in alto di noi, molto più in alto di quello che noi potremmo dire. Niente po' di meno che, permettetemi la presentazione così altisonante, le dichiarazioni di Kofi Annan, che è segretario generale delle Nazioni Unite. La violenza contro le donne, dice Annan, è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace. E ci chiediamo, Kofi Annan, oltre alle dichiarazioni, che altro faccia. Però questa è... E nonostante si sia da più parti convinte che oggi le donne godano di una maggiore libertà, ebbene, o forse proprio per questo, come dice Lucetta Scarafia, e ringraziamo per questo la nostra compagna Claudia, la compagna del nostro gruppo, che ci ha segnalato questo pezzo che già lei in un'altra trasmissione aveva detto, utilizzato a, a settembre di quest'anno, e lo rileggiamo volentieri perché è estremamente interessante. Sentite quanto dice Lucetta Scarafia: la donna che ha la libertà di muoversi da sola nel mondo esterno è più fragile dal punto di vista simbolico della donna tradizionale. Essa non rappresenta più con il suo corpo l'onore degli uomini, della sua famiglia, ma solo se stessa e insieme tutto il genere femminile. Chi la violenta compie perciò un atto aggressivo solo nei confronti di una donna e insieme di tutte le donne, senza toccare l'onore di altri uomini. Questa violenza serve a tenere le donne ancora escluse e fa nascere nuove necessità di protezione e di dipendenza. E c'è, è chiaro il parallelo con quanto per esempio abbiamo già citato noi all'inizio della trasmissione, cioè quanto detto da Adrienne Rich in Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica, che vi consigliamo vivamente. E allora aggiungiamo che i dati emersi rispetto alle violenze sessuali e alla loro denuncia, riportati nella relazione del procuratore generale Francesco Favaro per l'inaugurazione del corrente anno giudiziario, rivelano un aumento del reato pari al 48%. Quindi c'è un 48% di violenza sessuale, di stupri in più. E questo probabilmente perché sono aumentate le denunce, ma chissà. C'è un 48% di donne in più che soffre nel corpo. Certo, io mi rendo conto che questa trasmissione a me personalmente ha fatto venire la pelle d'oca più di una volta, e vorrei concluderla con un'altra canzone, sempre in tema, un brano musicale di Ochi Curiel che si intitola Nina Lei 2497, ed è la legge del 2497 dedicata a Juverkis, donna della Repubblica Dominicana, assassinata da suo marito di fronte alla polizia. La morte di Juverkis, di Marta, di Susana, di Maria, di Ana mostrano che la legge contro la violenza domestica, appunto la 2497 nella Repubblica Dominicana, non basta a sradicare la violenza. Nel suo disco Ochi dichiara: dobbiamo cambiare i valori che fanno della donna un oggetto senza valore, ed ecco alcune strofe della sua canzone. Non sono solo 500, ma sono già più di 1000. Non importa l'età, né il loro tipo di pelle. Tolgono loro la voglia e il pensare, coprono il volto e accartocciano la verità. E lui la prende veloce e violenta il ventre e la uccide, non importa che pensa, che sente, che dice alla gente. E lei, che parlava di leggi, voleva anche volare, oggi non ride con te, con me, tanto lontano è andato il suo sognare. E lui la ferisce nell'anima e le ruba il piacere, lei non dorme, non piange, non grida. Non si affaccia, non ha saputo che fare. Ya no son 500, ya cuentan más de 1000. No importa la edad ni su tipo de piel. Le quitan las ganas, le quitaron su pensar. Le cubren su rostro, le estrujaron su verdad. tal vez. Repiten los días, hoy lo mismo otra vez. Pañales, la cena y los besos que no dan. Y él aún más cerca, acechándola detrás. Casos de amores necesitas cortar. Quizás otra vida mejore un poco más. Él se niega y dice: mejor muerta te vas. Te mantienes firme y no miras atrás. Appuntamenti. Alcuni appuntamenti interessanti. Iniziamo da Teatralie, rassegna di letture teatrali al femminile. L'Unione Femminile Nazionale presenta il 17 febbraio alle ore 21 in corso di Porta Nuova a Milano Pagine Gialle, una terapia ai confini della letteratura con Franca Villa e Silvana Campanella della compagnia La Baracca di Monza. La signorina Lucrezia Pellegrini, perseguitata dal suo famigerato nome e da tutti quelli dei suoi familiari, chissà cosa accadrà, andremo a vedere. La rassegna segue con Giulla Rate, ripescando nei Vangeli apocrifi, nei saggi di teatro popolare, nei canovacci di Mistero Buffo, con Chiara Magri, Teatro del Vento, giovedì 17 marzo. Cieli di guerra, giovedì 14 aprile, un itinerario di parole e immagini tra i conflitti in atto nel mondo, con Franca Villa, della Baracca di Monza. A seguire giovedì 19 maggio, Le donne di Pirandello, amore e sesso, quando alla donna non è concesso di vivere l'amore con libertà, con Lisa Ferrari, Pandemonium Teatro. E finisce con giovedì 16 giugno 2005, Alta tensione, Buffer Binks racconta le proprie vicende cariche di orrore e brivido con Franca Villa, La baracca di Monza. Oh, ci interessa ricordare alle amiche che questo per esempio è un annuncio ed è, sono delle, di appuntamenti che ci ha mandato Eleonora Dall'Ovo di Milano, che è una nostra amica, collaboratrice, eccetera, e che sta anche su Radio Popolare, e noi la salutiamo. E proseguiamo con un altro appuntamento. Ora stiamo tutte all'estero, va bene? Tutta fuori Roma, perché noi siamo veramente internazionali, nazionali, internazionali, eccetera, eccetera, eccetera. E quant'altro, chi più ne ha più ne metta. Per darvi un'altra possibilità di appuntamento, vuoi stare al gioco o metterti in gioco? Ed è un laboratorio, uno spazio di ricerca attiva, giocosa e giocata con te e per le lesbiche, in cui potremmo esplorare e ricercare insieme possibili vie di trasformazione costruttiva delle nostre vite. E questa cosa, questo invito ce lo fanno le Desiderande di Bari, che propongono appunto il teatro dell'oppresso, cioè il laboratorio integra diversi metodi di lavoro psicosociale, ma è particolarmente ispirato al metodo teatrale del teatro dell'oppresso, che è nato negli anni 60 in Brasile, prevalentemente come teatro politico, e si è diffuso dagli anni 70 in Europa, come ha promosso il teatro come ha promosso il teatro come linguaggio, come mezzo di conoscenza e trasformazione della realtà interiore e relazionale e sociale. Allora, i requisiti di ammissione per chi volesse fosse interessato sono curiosità, voglia di giocare e di giocarsi, abiti comodi, il tailleur va lasciato a casa se ne avete mai avuto uno, e chi vi accompagnerà nell'esplorazione, così potete regolarvi, ed è la famosa Rosi mitica. Paparella, la mitica amica delle Desiderande, che orgogliosamente Desideranda, lei così si definisce, conduce laboratori esperienziali orientati al cambiamento personale e sociale. Ah, le piace ancora molto giocare. E dove? A Bari, abbiamo detto, ma il luogo è la Masseria Sant'Anna, sulla provinciale di Monopoli, Alberobello, Bari. È una struttura a 50 km circa dalla città, raggiungibile in auto e in treno scendendo alla stazione di Monopoli, e si dorme in masseria, si pernotta in stanze a 4-6 letti a castello, ed è necessario, vabbè, portare la biancheria, ste cose, bla bla. Le quote? Che possiamo fare, Luci, per chi volesse avere informazioni più precise, visto mi dispiace ma il tempo è un po' tiranno, leggi l'email loro sotto, così chiunque... Allora, per informazioni e per iscrizioni, info@desiderande.it, oppure il telefono è 333 715 5187, dalle ore 22. Però questo programma è per aprile ed è sabato, domenica e lunedì 23, 24 e 25 aprile. Divertitevi. Ora la rete di relazione ci porta in un altro punto dell'Italia, torniamo però da noi, e un'altra mail ancora delle nostre amiche che ci tengono sempre nel loro cuore, ci segnalano le iniziative di Arci Lesbica a Roma. Arci Lesbica si riunisce lunedì a Viale Stefanini 15 alle ore 21. Ci segnalano gli incontri pomeridiani L'LT presso il pub Lost and Found in via dei Sabelli 2 a San Lorenzo, la prima e la terza domenica di ogni mese. Ci incontriamo, socializziamo, ci vediamo sempre meglio all'LT. Abbiamo poi un calendario di cene sociali previste sempre presso la sede in via Stefanini alle 21. Ci saranno sabato 29 gennaio, 26 febbraio, 26 marzo, 30 aprile, 28 maggio e 25 giugno. E continuando sempre con Arci Lesbica di Roma, sì, stanno facendo dei seminari a cadenza quindicinale a cura della dottoressa Maria Giuffré, e quindi potete già lunedì 21 febbraio dalle 20.30 alle 22.30 l'accettazione di sé e gli automessaggi, lunedì 7 marzo dalle ore 20.30 alle ore 22.30 l'affetto sincero verso se stesse, l'attenzione ai nostri bisogni, e questo programma lo potete seguire presso la loro sede. Per informazioni potete andare a consultare il sito www.arcilesbicaroma.org oppure andare a Viale Stefanini 15, il telefono è 06 41 80 211. Da ultimo vi ricordo che per sapere le iniziative di Roma e della casa potete andare a consultare il sito della Casa Internazionale delle Donne, che è www.casainternazionaledelledonne.org, e per altre iniziative sappiate che potete contattare noi del CLR anche visitando il nostro di sito, no? Con le nostre iniziative, che è www.clrbp.it. In stereofonia ve l'abbiamo detto. E quindi c'è, ora Caterina ci darà un saggio dei messaggi, degli sms che ci sono arrivati. Allora, ne sono arrivati tantissimi, ringraziamo tutte coloro che ci hanno mandato una loro testimonianza e con altrettanto affetto contraccambiamo. E poi abbiamo una richiesta particolare da un'ascoltatrice che è veramente una fedelissima. Io mi rendo conto che magari l'argomento di oggi non si presta a dediche di questo tipo, ma lei è sempre così carina che non possiamo non accontentarla, e quindi dedichiamo la prossima canzone alla sua caramella, me lo ricordo, sì. Bene, mi sembra, ok, va bene. Scusate, però la canzone è una canzone che io ho voluto fortemente, lo devo dire, si intitola Strange Fruit ed è di Billie Holiday, e questa canzone è una canzone imperdibile secondo me, perché gli Strange Fruit erano i neri appesi agli alberi, purtroppo. Nulla di personale chiaramente per questa dedica. Naturalmente no, però è una canzone bellissima, struggente. Ok. Sulle note di Billie Holiday, il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. Vi ricordiamo che potete contattarci tutti i martedì qui in radio, i mercoledì presso il Centro Femminista Separatista dove noi ci riuniamo. Voglio salutare anch'io tutte quante, ringrazio ancora Differenza Donne e Antonella soprattutto che ci ha aiutato, e un saluto particolare a tutte le donne che ci hanno ascoltato questa sera e che magari in alcune parole si sono purtroppo riconosciute. Speriamo che il mondo presto vada verso un'altra direzione. Io vi ricordo anche di non andare via, non abbandonate questa frequenza, perché tra poco ci sarà il Liberamente con le compagne che verranno dopo di noi.